Effetto Mondo. So I said to my people, slow the testing down, please. He was not joking about coronavirus. I just said he was joking about the media and their failure to understand the fact that when you test more, you also find more cases. I don't kid. Let me just tell you. Let me make it clear. Ben ritrovata, Giulia. Che cosa era questo botta e risposta che abbiamo sentito con Trump? Sì, guarda, il primo estratto, quei pochi secondi, a Tulsa, in Oklahoma, davanti ai suoi sostenitori, questo era sabato, ha detto, ho detto alle mie persone, perché Trump anche nel linguaggio usa spesso questo aggettivo, i miei giudici, le mie persone, i miei secretaries, i miei ministri, ho detto di fare meno test. Naturalmente il riferimento è ai test, i tamponi. Negli Stati Uniti ne sono stati fatti finora 26,2 milioni, e quindi tanti sicuramente. E la dichiarazione però ha scioccato molti, perché comunque tutti dicono che, specie in presenza di questa seconda ondata di coronavirus, ci vogliono più test, non meno test. Ieri Anthony Fauci, ed è l'apertura del Washington Post di oggi, ha detto davanti al Congresso, questa volta non in modalità remota ma in presenza, con una mascherina nera, ha detto dobbiamo fare più test. Io non ho ricevuto alcuna indicazione per farne di meno. La seconda voce che abbiamo sentito è quella della graziosissima press secretary, quindi ufficio stampa della Casa Bianca, che ormai spesso risponde alle domande dei giornalisti, Kayleigh McEnany, è una ragazza, deve avere circa 30 anni, bionda, molto carina e gentile, che ha detto a domanda, quindi scherzava Donald Trump, certo che scherzava, siete voi della stampa che non capite. Perché semplicemente Trump voleva sottolineare che più test si fanno, più positivi si fanno. Ieri, partendo per l'Arizona, dove terrà una serie di comizi, l'Arizona è uno degli stati dove è in costruzione il famoso muro con il Messico, ed è sarà uno dei temi della campagna elettorale, hai detto I don't kid, io non scherzo mai. A questo punto, dove sia la verità, se fossi un elettore americano farei un po' fatica a capirlo, perché comunque le parole del presidente le ascolterei sempre pensando che non stia scherzando, specie se poi due persone vicino a lui confermano questo, perché ricordo quantomeno che si devono mettere d'accordo Trump con la sua addetta stampa, perché se lei dice che scherza, lui poi dice non scherzo. A proposito di elezioni, Peter però Navarro, Sì, ti cito solo Peter Navarro, che è un advisor di Trump, che aveva dichiarato questo domenica, ma no, stava scherzando, siete voi, sempre ripetendo questo adagio che è la stampa che non comprende Trump, che non avete capito, che era un'esagerazione da comizio. Ma non Trump ci si capisce, dice, più non niente. Ho esagerato per niente. A proposito di elezioni, ci sono delle elezioni, e anche qui sono fonte un po' di polemica per la questione del voto per posta, credo, no? In Kentucky. Sì, in Kentucky a Louisville ci sono delle primarie per decidere appunto i candidati poi per i senatori e i deputati, i rappresentanti alla Camera dei rappresentanti, alla House of Representatives, che noi potremmo tradurre con deputati, la Camera Bassa degli Stati Uniti. Ovviamente si devono svolgere queste votazioni, e la foto sul Wall Street Journal è proprio di queste urne, tutte distanziate. L'alternativa già usata in passato è quella di votare per posta, che è molto diverso dal televoto. Donald Trump ieri ha fatto due annunci che conquistano le prime pagine dei giornali oggi. Uno, che chi si macchierà di questo delitto di imbrattare o peggio abbattere le statue di epoca, per esempio confederata, cioè della guerra civile, verrà condannato in via direttissima e avrà una pena di 10 anni di carcere. E poi che le elezioni, secondo lui, se veramente per le elezioni di novembre si sta pensando a dei voti per posta di massa, quella sarà la più grande truffa elettorale della storia degli Stati Uniti. La cosa curiosa che hanno sottolineato tutti quelli che hanno un grande affare a fare fact checking di quello che dice Donald Trump, hanno sottolineato che alle ultime due tornate elettorali Donald Trump, sua figlia Ivanka e suo genero Jared Kushner hanno usato il voto per posta, quindi evidentemente all'epoca si fidavano. Sotto traccia c'è sempre il complottismo, cioè che i democratici stanno spingendo per il voto per posta per falsare il risultato elettorale. Senti Giulia, in Germania si sono arresi, hanno chiuso il Reno Westfalia, e che notizie trovi sui giornali di oggi? Sì, se vuoi sentiamo l'audio del ministro della salute del Nordrhein-Westfalia, Karl-Josef Laumann, che si è, come dici tu, arreso ieri e il lockdown è stato ufficializzato. Sentiamolo. Wir haben dann ja die Regelung, dass sich im Kreis Gütersloh alle Menschen, die es wollen, testen lassen können. Wir werden auch öffentliche Teststationen über Bundeswehr, Rote Kreuz errichten. Aiutaci, Giulia. Ecco, sì, il tema, come dicevamo, è che quando se c'è una seconda ondata, è quello che dice Fauci, è il momento di aumentare i test. E quindi Kaufman dice chiunque lo vorrà avrà il test gratuito, lo metteremo a disposizione, andremo anche a casa delle persone a farlo. Quindi si conferma questo atteggiamento della Germania che con i test e con il tracing vuole affrontare queste eventuali seconde ondate. Vi segnalo che in Germania sono ormai più di 12 milioni le persone che hanno scaricato l'app. E se vuoi questo ci porta in Francia, perché invece in Francia sì, l'hanno scaricato circa 2 milioni di persone, ma sono soltanto 68, non sto scherzando, 68, è sulla prima pagina del Financial Times di oggi, le persone che l'hanno poi utilizzata per fare quello che bisogna fare, cioè segnalare i risultati dei test, perché sennò non si fa tracing di niente, si fa tracing degli amici, ma Vorrei sapere in l'idea è Italia quella di... quanti casi abbiamo. Credo meno di 68, perché abbiamo 3 milioni circa di app scaricate. Non so per ora, veramente non ci sono, credo, dati su questo. E quindi insomma, Financial Times lo mette in prima pagina, anche se l'apertura a proposito di Germania, e questo è il focolaio oscura un po' questa notizia sui giornali tedeschi, o forse è talmente una vergogna perché è una sorta di Parmalat tedesca che si preferisce forse non approfondire troppo. È lo scandalo Wirecard, questa azienda che probabilmente ha un buco di circa 2 miliardi, non si sa bene da chi intascati. In ogni caso, l'ex CEO Marcus Braun era stato arrestato ed è stato, anzi, si era consegnato volontariamente lunedì e poi è uscito su cauzione, una cauzione da 5 milioni di euro. C'è anche un neologismo che mi segnali oggi dalla stampa francese, curioso. Sì, la Francia che si occupa naturalmente molto delle elezioni amministrative che stanno arrivando e Le Figaro crea questo neologismo idéocologie, quindi non écologie, non ideologie. La campagna elettorale, lo si era sottolineato anche prima dell'inizio della pandemia, sarebbe stata anche molto sui temi verdi. Secondo Le Figaro si sta esagerando, un po' C'è come una qui da noi che si scaglia. ideologizzazione del tema ecologico. Sì, o magari troppe, per dire, troppe piste ciclabili, troppi aiuti alle auto elettriche, insomma, si sta un pochino esagerando, ma io credo che in questi temi forse tu sei d'accordo con me, l'esagerazione forse Io ci può sono anche stare, abbastanza cioè più d'accordo ne con te, diciamo sì, meglio è. su questo. Non so se in maggioranza o minoranza, ma insomma, poi ognuno ha i suoi punti di caduta e di sensibilità. Giulia, anche oggi tanta pubblicità, quindi ci salutiamo qua. Ci risentiamo con te venerdì. Grazie. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. E un ringraziamento a Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonesi in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione. Appuntamento a domani. Ciao da Alessio Maurizio.